4 mattino. Sono le 8:19 minuti, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino, mercoledì 18 novembre, al microfono sempre Simone Spezia. Nella seconda parte della trasmissione avremo ospite il ministro degli affari europei Enzo Amendola, e con lui parleremo di questo blocco messo da Polonia e Ungheria sul questo veto momentaneo, speriamo, sul bilancio europeo, che sta bloccando anche il recovery fund e anche della curiosa proposta di David Sassoli di cancellare il debito. Ci occuperemo anche della storia che abbiamo raccontato ieri in rassegna stampa di questo video hard messo in rete dall'ex fidanzato di una donna, la quale poi è stata licenziata per questo. È il momento però, come sempre, di fare un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci. Eccomi, sono eccoci, pronto. Eccoci qua. Come non cominciare dalla Calabria? Come non cominciare da questo passaggio di un film con Alberto Sordi? Era il boom di De Sica. Sentiamo. Ma se ti dicessi, cambiamo vita, andiamo giù a vivere a Catanzaro. E poi che c'entra Catanzaro? Nel sud la vita costa meno. Ma noi stiamo tanto bene qui, nel sud. Figurati. Figurati, parole della moglie del rettore Gaudio, ecco. Pare, dell'ex rettore Gaudio, pare. Ecco dove si è ispirata, un film che anno era, il 63, quel film. Credo di sì. Insomma, sarà all'inizio degli anni 60, meraviglioso la storia di Gaudio, non possiamo che scherzare. 3 in 10 giorni, quanti sono passati? In 10 giorni. Sono saltati uno dietro l'altro. Guarda che il record, forse l'ha battuto però il Perù, che ha cambiato 3 capi di governo in 9 giorni. Vedi? Prima. Martin Vizcarra, che è stato adesso, in questi giorni, contemporaneo, c'è un gemellaggio fra Lima e Catanzaro. Martin Vizcarra buttato giù per corruzione, poi Manuel Merino, che è stato buttato giù da delle proteste di strada, e adesso Francisco Sagasti, che se la passa male, 76 sì. anni. Insomma, ci sono. E il generale Cotticelli, è pronto a trasferirsi a Lima per prendere in mano il paese. Io proporrei uno scambio, ovviamente come sovrintendente allo scambio Gino Strada. Sì. È l'unico che ha caratura internazionale di questi nostri personaggi, mandare alcuni di questi eroi calabresi, che tra l'altro calabresi non sono, o non tutti, mandarli in Perù e prenderci noi i peruviani e metterli a capo della sanità, forse a capo della sanità calabrese. Questo potrebbe essere una soluzione, e i due paesi la passano comunque. Tutti i calabresi vadano a fare delle vacanze in Perù quando si riapriranno le frontiere, quando il Covid sarà finito, e c'è stata questa singolare coincidenza di un paese intero, una regione, che hanno avuto le stesse vicissitudini. Sì. C'è una cosa, Paolo, perdonami, c'è una cosa che noi dobbiamo dire che questa storia della moglie di Gaudio è chiaramente una scusa, o no? È ovvio, ma è ovvio. Allora, cosa è successo? Gaudio si è visto che è bastata la nomina e andavano a guardare a tutte le sue grane giudiziarie, che sì, sono in via di chiarimento, ma sai, con la giustizia italiana in via di chiarimento vuol dire tutto e niente, e si è messo lì con la moglie gli avrà fatto osservare, non come quella di Sordi, che Catanzaro è scomoda, ma diceva: vuoi veramente metterti in un inferno in cui vai lì? Probabilmente non sai dove mettere le mani, e in più ci riaprono tutte le cose giudiziarie. Ma lasciamo perdere, guarda, troviamo la scusa che sono io. Dice: ma te la prendi tu la colpa? Sì, me la prendo io, ha detto lei. E il capo dello Stato è intervenuto dicendo: basta con polemiche scomposte. Credo che, sai, bisogna interpretare le cose che dice Mattarella, credo che si riferisse anche alla vicenda calabrese, che sicuramente è stata come se fosse un complotto contro il ministro Speranza, perché questo ministro è entrato 10 giorni fa, che aveva, insomma, buone credenziali, era un ministro fra i più rispettati, e ne esce a pezzi, anche se Conte si è preso nobilmente tutte le responsabilità. Sì. E credo che effettivamente Gaudio l'abbia contattato lui, perché mentre Zuccatelli è più un tipo da Speranza, perché è anche un suo compagno di partito, Gaudio è un tipo da Conte, è l'entourage di Conte che si rivolge a uno come all'ex rettore, insomma sembra... Però ci sarà tempo di capire, speriamo che adesso trovino un commissario alla sanità all'altezza, la smettano con questo balletto di Gino Strada, che è appunto un balletto, è chiaro che non hanno nessuna intenzione di affidare a Gino Strada il posto di commissario, almeno a me sembra, sì, in Calabria, se no gliel'avrebbero dato subito, ed è chiaro anche che Gino Strada non ha nessuna voglia di trasferirsi, è un po' come la moglie di Sordi, anche Gino Strada non ha voglia di andare a Catanzaro, preferisce posti più scomodi in Etiopia, in Afghanistan, dove veramente si possono fare le cose. Paolo, cos'altro hai visto? Allora, ho visto... Senti, fammi chiudere solamente con... perché è una voce che dobbiamo far sentire agli ascoltatori, perché ha a che fare con la Calabria, ha a che fare con la pandemia. In questo delirio completo torna anche Antonino Ingroia, l'ex PM, abbiamo raccontato, anche alle ultime elezioni, candidato in un piccolo comune, gli è andata male. PM, fu quello che istruì il processo trattativo, insomma... Sì. In scacco l'Italia 10 anni fa in modo notevole, che ha fatto senti cosa ha detto, va. C'è qualcosa di oscuro anche all'origine di questa pandemia. Se 2 più 2 fa 4 con il ragionamento del cui prodes, allora ci si deve interrogare se fosse vero che questa pandemia non è stata casuale ma è stata determinata, può darsi che qualche componente criminale all'origine di questo avvio abbia avuto un ruolo. Se fosse vero che tutto nasce dalla Cina, la 'Ndrangheta calabrese poi era la principale ormai multinazionale del crimine che abbiamo in Italia, in quanto multinazionale tiene relazioni con tutte le mafie del mondo. Certo, ma a questo punto l'Ndrangheta che ha creato la pandemia insieme alla Cina, ci mancava giusto questo. È sulla scia del direttore, che l'abbiamo sentito ieri, di Radio Maria. Sì. Però guarda che queste cose che dicono Ingroia, certo fa impressione, perché uno è un direttore della radio principale del mondo cattolico, l'altro è Antonio Ingroia, e molti ce ne sono più. Vedo sondaggi su tutti i giornali, Corriere della Sera, Libero, che Messaggero ce l'ha addirittura in apertura, che dicono che quasi la metà degli italiani, anche se arrivasse il vaccino, non si vaccinerebbe. Cioè, c'è una crisi di fiducia sulla serietà delle istituzioni e di chi fa l'offerta. Sai, anche tutte queste polemiche che i dati non sono attendibili, effettivamente i dati in questi giorni ballano in maniera incredibile, nel senso che diminuiscono i tamponi, quindi diminuiscono i contagiati, ma aumentano i morti a dismisura. Ieri l'Italia credo fosse il record mondiale in proporzione al numero di abitanti di morti, e ne abbiamo fatti tipo 10.000 nell'ultimo mese. C'è qualcosa che sfugge, non, il manico, il volante non è ben in mano a tutti. Conte si preoccupa molto, oggi i giornali lo dicono, dei servizi segreti, l'abbiamo detto anche ieri, questo genera il suo uomo, Gennaro Vecchione, se lo tiene ben stretto, il suo Arcuri personale, il capo dei servizi segreti, il PD è nervoso, ieri Zingaretti ha mandato a quel paese David Sassoli, che aveva fatto la proposta di azzerare il debito, così. Perché dico ha mandato a quel paese? Perché ha detto non è il momento delle sparate. Ora, non è una frase cortese nei confronti del più alto rappresentante, insomma, ha definito una sparata, credo purtroppo che abbia ragione Zingaretti, però insomma, non voglio dire. E basta. Sì. E poi c'è Renzi, una clamorosa intervista di Renzi che dice bisogna aprire Berlusconi, i 5 Stelle si danno da fare per quella norma salva Mediaset, anche questo è paradossale, ma sai che ti dico? Dimmi. L'impressione che Berlusconi non abbia nessuna voglia di entrare in questa maggioranza. Cioè Berlusconi incassa, è diventato un grande uomo politico, incassa le norme salva Mediaset e poi li lascia lì a discutere, ma quando arriva l'invito di... perché entrare in maggioranza? Se si possono avere i vantaggi, fa delle piccole cose. Per esempio, ho notato una piccolissima cosa, che ieri è andato in aiuto a De Magistris, al sindaco di Napoli, lì probabilmente, insomma, gli ha dato un aiutino marginale, ma di entrare non ce lo vedo entrare in maggioranza e a fare il vicepresidente del consiglio di Conte. Improbabile. Paolo, vorrei portarti sugli Stati Uniti, perché la notte ha portato innanzitutto il siluramento da parte di Donald Trump del suo capo della cyber security, ma soprattutto un presidente che è di fatto in uscita e che ha un grande attivismo, una grande attività di politica internazionale, addirittura con ipotesi di politica anche militare, con ipotesi di bombardamento dell'Iran. Che impressione hai? Che vedo che hai letto anche tu il New York Times, che è molto allarmato perché era pronto il bombardamento dell'impianto nucleare di Natanz in Iran, dicendo che la quantità di uranio stoccato nella centrale era 12 volte superiore a quella prevista dall'accordo con gli Stati Uniti, accordo dal quale gli Stati Uniti, detto per inciso, sono ritirati nel 2018. Poi ha varato un mega piano di ritiro delle truppe dall'Iraq e dall'Afghanistan. Poi vuole lanciare nuove sanzioni ad personam contro dirigenti di Pechino accusati di violazione dei diritti umani degli uiguri. Insomma, sta cercando di mettere nell'ambito del consentito, perché tranne forse il bombardamento della base nucleare, dell'impianto nucleare di Natanz, le altre sono cose che può fare, ritirare soldati, additare dirigenti cinesi come criminali, e sta cercando di mettere delle zeppe per l'amministrazione Biden. La puoi leggere in modo buono o cattivo? Dimmi tu, scegli, buono? Cattivo, vai, cattivo, è più divertente. Buono, allora, ti dico tutte e due. Buono vuol dire che ormai è rassegnato andarsene, perché sennò sarebbero zeppe a se stesso. Cattivo è che ha l'intelligenza e i poteri di provocare guai seri alla partenza dell'amministrazione Biden. In genere si dice che la partenza di un presidente ha 100 giorni di grazia. Ecco, Biden ne avrà 10, poi gli altri 90 saranno giorni difficili. Fra tutti quelli finiti nei gai, fatti dire, un altro eroe delle Iene, Dino Giarrusso, il giornalista che poi è passato con i 5 Stelle, è diventato eurodeputato, adesso è sotto accusa dal suo partito per aver preso soldi dalle lobby. Però c'è una buona notizia, il Foglio esulta perché pare che si uniscano forse Calenda, il gruppo di Calenda e quello della Bonina. Grande notizia, allora, al centro. Peccato che non possono unirsi anche con Renzi, perché questi due gruppi, dice il Foglio, sono all'opposizione, Renzi invece è ancora dentro la maggioranza. Però dice il Foglio, può essere l'inizio di qualcosa. Io penso che l'unione fra quei due è l'inizio di un partito al centro. Io penso che tu sotto sia d'accordo, e quindi guarda, te lo segnalo anche per farti un favore. Sono un mero osservatore, caro Paolo. Ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata. Ciao. Ed eccoci di nuovo. Ricorderete tutti, o molti di voi ricorderanno, la storia di Tiziana Cantone, morta suicida nel 2016 dopo che in rete erano stati diffusi dei suoi video. Oggi abbiamo deciso, un po' diversamente dal solito, di toccare quantomeno brevemente questo tema. anche sulla base di un pezzo che abbiamo letto ieri in rassegna stampa, era sulla stampa, oggi lo riprende qualche giornale, e che sembra dare la misura che c'è un pezzo di paese che non ha ancora compreso perfettamente che cosa succede, non solo nella sua componente maschile ma anche nella sua componente femminile. E tutto parte da una storia di cronaca, revenge porn, lo sapete che cos'è, tra l'altro è previsto specificatamente una fattispecie di reato, un aggravante di reato nella nuova legge Codice Rosso. Che cos'è il revenge porn? È quando ti ritrovi, quando si dispone di un video di una ex che ti ha lasciato e lo si diffonde in rete agli amici e via dicendo. E questo è il caso che è avvenuto ad una maestra d'asilo di un comune del Torinese. Il suo ex fidanzato disponeva di questi video e di queste foto che la ritraevano, l'ha diffuse agli amici del calcetto, e il risultato finale è stato che questa donna è stata anche costretta a dimettersi dall'asilo nel quale era, e adesso è partita una battaglia legale nella quale è assistita dall'avvocato Domenico Fragapane, che è in linea con noi. Fragapane, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Tutto inizia nell'inverno del 2018, se ho capito bene, no? Sì, esatto, sì. E come devo fare solo qualche precisazione. Il rapporto fra i due giovani era in piedi quando c'è stata questa divulgazione non consentita di immagini. Quindi non è una storia, non è stata una vendetta perché l'uomo è stato lasciato. No, non è stata una vendetta. E questa giovane, di fronte a quello che è successo, la condivisione abusiva, illecita, violenta di queste immagini con terze persone, non si è dimessa, è stata invitata a dimettersi, poi rivendicando la sua posizione di vittima. Lei si è rifiutata di dimettersi dal posto di lavoro ed è stata licenziata. Perché da quel che ho capito, mi scusi avvocato, si è scatenato quello che a volte si scatena da una parte nei paesi e dall'altra in queste micidiali chat WhatsApp delle mamme. Una delle persone, uno degli uomini che ha ricevuto i video e le foto della sua assistita era il padre di un bambino che andava all'asilo. La moglie ha visto queste foto sul suo cellulare, l'ha diffuse anche nella chat WhatsApp delle mamme, è arrivata la dirigente dell'asilo. Ho capito bene, il giro è stato questo? Sì, esatto, il giro è stato questo. E la dirigente dell'asilo ha convocato la sua assistita e le ha detto: guardi, se ti dimetti, bene, se no ti licenzio, sostanzialmente è andata così. E la situazione dal punto di vista... In termini anche più coloriti, adesso insomma, per sintesi non stiamo a... Mi dica i termini coloriti, avvocato. No, i termini sono stati questi, cioè la vicenda può nuocere alla scuola e pertanto o ti dimetti e la chiudiamo qui, oppure io ti licenzierò, cosa che in effetti è avvenuta attraverso una contestazione disciplinare nell'ambito della quale la ragazza ha esposto le sue ragioni, ha fatto presente che questa cosa era nata in un rapporto strettamente riservato ed intimo con questa persona con la quale era legata, che ne ha abusato e non di meno si è arrivati ad un incidente. È stata riportata la frase della dirigente che suonava più o meno così: o ti dimetti, cioè o lasci il posto di lavoro, oppure di fatto lo faccio sapere a tutti e non trovi nemmeno più posto per lavare i pavimenti. Per lavare i gabinetti. per ecco, lavare i gabinetti per l'esattezza. Sono passati 2 anni, la giustizia ha fatto il suo corso o no, avvocato? La giustizia sta facendo il suo corso, nel senso che c'è un processo penale che vede imputati il compagno, l'ex fidanzato, ora ex effettivamente, alcuni dei genitori che hanno trattato questi dati ultra riservati e la stessa responsabile del licenziamento, ciascuno con le sue imputazioni, imputazioni che sono anche di una certa gravità, perché insomma qui si parla di violenza privata, non soltanto di trattamento abusivo di dati, non soltanto di diffamazione, perché insomma le nuove norme erano applicabili a questo caso, avvocato, oppure no? No, non erano ancora applicate. Infatti la contestazione è appunto per violenza privata e altre fattispecie, insomma, ma comunque diciamo che il reato più grave è la violenza privata. La ringrazio, grazie all'avvocato Domenico Fragapane, appunto avvocato di questa maestra che ci ha aiutato a mettere in evidenza la vicenda, la storia e anche gli elementi correlati. Ci fermiamo, c'è una breve pausa e poi andiamo dal ministro degli affari europei Enzo Amendola. In queste ore, come ben sapete, come abbiamo raccontato, c'è qualche problema a Bruxelles sul fronte del recovery fund, perché Polonia e Ungheria stanno di fatto bloccando il bilancio. Perché? Perché l'Europa ha deciso di vincolare l'erogazione dei fondi, non solamente quelli del recovery fund di Next Generation EU, ossia dei soldi messi a disposizione per la pandemia, ma in generale tutti i fondi europei, al rispetto di alcune norme cosiddette dello Stato di diritto. Cosa vuol dire nella fattispecie? Di che cosa stiamo parlando? Vuol dire per esempio il rispetto dei diritti delle minoranze e delle organizzazioni non governative? Il rispetto della libertà dei magistrati, la libertà della magistratura, l'indipendenza della magistratura, elementi che si ritiene che Polonia e Ungheria non stiano rispettando. E quindi cosa succede? Si blocca tutto. Buongiorno ministro Enzo Amendola, ministro degli affari europei, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Il rischio che tutto il pacchetto sia varato con grave ritardo c'è, Amendola, mi pare di capire. Ma il rischio c'è. Ieri abbiamo fatto una riunione dei ministri degli affari europei dove 25 paesi sono concordi con il negoziato, perché tra Consiglio europeo, in base all'intesa del 21 luglio, negoziando col Parlamento europeo, che il massimo rappresentante della democrazia popolare europea, si è trovato un accordo salvaguardando anche questa condizionalità per lo Stato di diritto, cioè i valori, il rispetto dei valori fondanti dell'Unione Europea. Due paesi mantengono il veto, noi continueremo a insistere che questo è un accordo che non solo dà forza all'economia europea con quasi 1.800 miliardi tra bilancio e Next Generation, ma è anche dentro l'identità di una casa comune europea. Quindi ho registrato ieri 25 paesi a favore e 2 che sono ancora titubanti, e spero che questa loro titubanza cessi il prima possibile, altrimenti sarebbe una grave responsabilità. Vede delle possibilità che cessi questa loro titubanza oppure no? Cioè che nell'incontro di ieri cosa ha visto e cosa ha percepito, ministro, da parte dei rappresentanti ungheresi e polacchi? Ma io non, c'è un tema un po' contraddittorio quello che ho detto io, in quanto nessuno Stato, incluso Ungheria e Polonia, dicono di violare lo Stato di diritto. Allora perché aver paura di una condizionalità che serve proprio a tutelare tutti e 27 paesi, se la prima assunzione di questi due paesi è proprio che loro rispettano lo Stato di diritto. Perché aver paura di una condizionalità? Quindi c'è un po' una contraddizione nella posizione di questi due paesi. Sospetta, Ministro, che ai, ai cosiddetti frugali faccia gioco questa operazione di Polonia e Ungheria, questa volontà no, anche di ritardare non, l'erogazione? Io non la dietrologia non mi appartiene, nel senso che anche altri paesi del cosiddetto blocco di Visegrad, come Slovacchia, Repubblica Ceca, sono a favore, c'è proprio un'unanimità, abbiamo fatto un buon cammino, un accordo storico il 21 luglio, il negoziato col Parlamento che addirittura ha alzato i saldi del bilancio europeo, ha confermato tutti quelli che erano gli elementi dell'intesa del 21 luglio, quindi io vado per la strada principale. La strada principale è accettare che l'Europa che stiamo costruendo non solo deve essere forte nella reazione, come abbiamo visto anche col Sure, questi soldi per la cassa integrazione che stanno arrivando, ieri è arrivata una seconda tranche, quindi essere forte, veloce nel combattere la pandemia con un coordinamento sanitario, veloce per affrontare la crisi economica, ma anche chiara sui suoi valori identitari. Credibilmente, secondo lei, che tempi abbiamo per avere un accordo? Guardi, la presidenza tedesca ha registrato questo largo consenso, quindi la presidenza tedesca è di turno dell'Unione Europea, è quella che proporrà ai prossimi consigli europei, il prossimo seduto del Parlamento, di andare avanti col negoziato. Quindi aspettiamo i prossimi passaggi con fiducia, però sa, questi sono dei momenti in cui bisogna avere una visione chiara e avere delle misure, come abbiamo deciso, sul tavolo, pronte a partire. Quindi la mediazione è ovvio, tra 27 paesi bisogna sempre essere pronti a qualsiasi mediazione, ma qui siamo già a un buon risultato, quindi io mi auguro che i due paesi ragionino su questa condizione, che poi crea anche frustrazione nelle opinioni pubbliche europee. Siamo tutti in sofferenza, tutti i 27 paesi hanno misure di contenimento per la pandemia, hanno tutti bisogno che l'economia, le imprese, il mondo del lavoro siano stimolate, siano tenute in maniera coesa, quindi c'è poco tempo da perdere. Senta Mendola, nei giorni scorsi il Presidente del Parlamento Europeo e suo collega di partito, David Sassoli, ha tirato fuori quest'idea di cancellare il debito contratto per fronteggiare la pandemia. Mi sembra di aver visto un virtualissimo, per carità, scappellotto arrivare dal segretario del partito proprio in queste ore, da Nicola Zingaretti, il quale ha detto non è il momento di spararla grossa. Lei come la vede questa ipotesi di cancellazione del debito? Ma guardi, quando si è ministro di un governo come il nostro, che ovviamente come tutti i paesi europei stanno in questo momento facendo debiti per tenere la coesione sociale, le parole bisogna essere chiari e netti anche qui. Il presidente Sassoli ha parlato di alcune ipotesi, noi in questa fase lavoriamo sulla realtà, perché i trattati sono quelli che sono chiari, bisogna far sì che l'Unione Europea stimoli con politiche fiscali, che la BCE stimoli con politiche monetarie, che è quello che sta succedendo. Quando si parlerà di ipotesi di riforma dei trattati si vedrà, ma al momento... E poi i debiti si pagano, diciamolo. Guardi, noi abbiamo con la NADEF, anche in questa fase in cui stiamo facendo molta politica di ristori, di coesione sociale, abbiamo sempre messo la sostenibilità del debito e anche la discesa della curva del debito, perché il debito lo pagheranno i nostri figli, quindi bisogna in questa fase essere uniti e coesi come paese, ma guardare anche al futuro. Tutte le indicazioni che abbiamo dato, anche presentandole al Parlamento, anche l'utilizzo dei fondi europei, che parte sono prestiti, dobbiamo sempre utilizzarli con cautela, con sostenibilità e anche dando messaggi chiari ai mercati. È stato anche, forse qualcuno nota, un errore politico quello di Sassoli. Insomma, voi siete là come governo che trattate anche con i frugali perché il recovery fund arrivi il più presto possibile, e un rappresentante, per quanto presidente del Parlamento Europeo, quindi di un'istituzione sovranazionale, e però italiano, dice cancellate il debito. Gli olandesi probabilmente questa cosa non l'hanno presa benissimo. Ma guardi, le parole del governo italiano sono sempre state chiare e nette. Lavorare insieme per la ripresa, per fare scelte comuni come l'abbiamo fatto, perché per esempio il Next Generation sarà alimentato da debito comune, da bond, che era una parola vietata fino a pochi mesi fa, e anche entrare su una strada nuova per le politiche europee dal punto di vista degli strumenti, SURE, il Next Generation, gli investimenti green e digitali. Quindi su questo noi non abbiamo mai derogato, non solo dagli accordi, ma anche da un linguaggio chiaro e netto. Investire insieme, tenere unita l'Europa in questo momento difficile, investire per esempio sui vaccini tutti quanti insieme, ma assumendoci le nostre responsabilità. E l'Italia ha una responsabilità di far calare il debito nei prossimi anni, è ovvio. E questo, lei ha sottolineato un punto che è interessante, se vogliamo chiudere con una nota positiva, Ministro, ed è questo embrione di Europa sanitaria che abbiamo visto con gli accordi che Bruxelles sta stilando per i vaccini da distribuire in tutta Europa. Quello è un buon segnale, mi pare. Ma guardi, lei si ricorda che a febbraio scorso le riunioni dei ministri della sanità erano delle riunioni di coordinamento, perché non esisteva una politica sanitaria. La politica sanitaria era sovranista, cioè ognuno se la faceva a casa sua. Invece abbiamo fatto dei passi sotto l'onda di questa crisi molto importanti. La politica sanitaria adesso ha una direzione in commissione, ha dei fondi comuni e soprattutto ogni settimana i leader si incontrano per discutere come investire questi fondi sui vaccini, che dovranno essere disponibili per tutti gli europei e anche per solidarietà paesi extraeuropei fragili. Una sanità comune significa libera circolazione dei trattamenti medici, significa condivisione di questa sfida. Io credo che in pochi mesi, oltre al Next Generation, anche sulla sanità abbiamo fatto passi da giganti, proprio per chi diceva che ognuno si salva da solo a casa sua, abbiamo dimostrato che c'è un'alternativa ed è un'alternativa valida. Chiudiamo, visto che abbiamo ancora un minuto, con l'ultimo elemento, se vuole, quasi politico. Ieri il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha detto che il MES è definitivamente archiviato. Su questo concordate nel governo? Ma guardi, come sa, nel Parlamento e anche nel governo ci sono opinioni differenti. Io, essendo un pragmatico, dico che tutti gli strumenti vanno valutati in base al fabbisogno nazionale, in base a quello che succede nel nostro paese, e sono tutti elementi che deve valutare il Parlamento. Quindi dico, dinanzi a queste opzioni, chiudere, dire mai, non funziona molto. C'è una discussione da tempo sul MES, non la nascondiamo, anche abbastanza virulenta e turbolenta. Suggerirei più pragmatismo e anche più attenzione a quello che succede nel nostro paese. Grazie Enzo Amendola, ministro degli affari europei, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi. Pietro La Corte in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, in redazione anche Giorgio De Luca, Gloria Guerrera, Margherita Ina, Francesco Sciaraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao. Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it vi ha presentato Quattro Mattino.